nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Quanto tempo sembra che passi da quando ci lasciamo il sabato e ci ritroviamo? Questo perché c'è proprio il desiderio di ritrovarsi. In realtà poi anche quando c'è il desiderio il tempo passa velocissimo, passa sempre più veloce, tanto che non ci sono più le mezze stagioni tra una e l'altra, l'avete visto? Non ci saranno più le mezze. Effettivamente stagioni. Diciamo che c'ho un gioco facile questa volta a confermare il titolo della trasmissione, perché avevamo le manichine corte, io ancora mi ostino effettivamente a portarle, è arrivato un gelo da qualche parte, è anche nevicato, era estate ieri e oggi insomma proprio è più azzeccato di così, diciamo, scusate se mi autoincenso ogni tanto. E poi non ci sono più le mezze stagioni anche perché cambiano i contenitori delle pizze, lo sapevate? Vi porterete tra poco la pizza dentro un disco d'acciaio, non più in quelli di cartone, perché in realtà quelli di cartone non sono riciclabili, quando vengono attaccati il funghetto a mozzarella non sono più riciclabili, anche se tutti ci ostiniamo a buttarli dentro la carta, non si buttano dentro i contenitori della carta, non sono riciclabili. Invece un network newyorkese, pensate, entro pochissimo partorirà questo contenitore d'acciaio che sarà riciclabile più di 1000 volte, quindi questo è il vero ecocontenitore della pizza. Ma andiamo ai fatti concreti di questa settimana, come sempre lo sapete è il mio appuntamento, mio con voi, vostro con me e con l'opinionista estemporaneo che tra poco vi presenterò, per commentare tutte le notizie della settimana, quelle che ritenete che vi abbiano più colpito, più impressionato, sulle quali avete fatto più riflessioni. E vorrei in questa occasione andare a prendere direttamente dalla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni un po' quelli che sono stati i vostri suggerimenti, diciamo, ma molte cose, molti interventi per quanto riguarda appunto le notizie della settimana. Vado a sfogliare la stampata che mi sono fatta e per esempio c'è Raffaele che dice: la notizia è che stiamo andando a fondo, temo una nuova Grecia o peggio l'Argentina. Per Emilio dice: parliamo del processo Meredith e adesso Rudy Ghedè, che fine farà? Vincenzo dice: il crollo di Barletta è una tragedia ma all'italiana, molti inquilini da tempo avevano manifestato preoccupazione per crepe e scricchioli, un quarto d'ora prima i tecnici avevano rassicurato tutti e poi è successo quello che è successo. Robert dice: parliamo di intercettazioni. Santina, anche lei sul processo Meredith. Stefano dice: la sentenza d'appello del processo Meredith evidentemente ha molto colpito. Michele: Barletta, non ho dubbi, corsi e ricorsi storici, le cose non cambieranno mai, la gente sarà sempre sfruttata e costretta a lavorare in condizioni pessime al limite della sopravvivenza. Altro che Moody's, così aggiunge anche un'altra notizia, altro che i rating, qua siamo peggio del terzo mondo. Per Corrado dice: no, tutto meno il processo Meredith. Alino: parliamo di Fiat e Confindustria, che qui sapete l'imminente uscita di Fiat da Confindustria, insomma è una cosa grossa, mi piacerebbe anche sentire il vostro parere su questo e vi ricordo il numero 800 24 00 24. Bruno dice: Barletta, premesso che il lavoro nero è sempre odioso, sostengo che la questione principale non è che solo le operaie nello scantinato lavoravano in nero o in bianco, la questione è che chi sapeva e doveva controllare invece evidentemente non l'ha fatto ed è pagato magari profumatamente. Enrica, parla dell'eventuale candidatura a Banca d'Italia di Giuliano Amato, dice lei, che dovrebbe sparire dalla circolazione visto che era consigliere di Craxi, quindi colpevole quanto lui. Insomma, tantissime notizie, naturalmente la morte di Steve Jobs e poi il declassamento di Fitch, il Nobel per la pace a tre donne, due africane e una yemenita. Insomma, scegliete voi. E vado subito, signore e signori, a presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Marcello Veneziani. Buongiorno. Caro Marcello. Eccoci. Hai visto quanta roba, quanta carne al fuoco, Poi... tanta, e devo dire con una percentuale di politica minore, e questo ci rassicura. Sì, ci però... sono molti fatti di cronaca e poca politica. Anche se la politica, poi gli ascoltatori e le ascoltatrici l'hanno messo in un altro tipo di intervento su Facebook, di cui poi parleremo con calma. In realtà c'è, però sì, sulle notizie scelte, diciamo, c'è altra varietà. Marcello Veneziani, bisogno di presentazione, naturalmente, giornalista, scrittore di tanti, tanti saggi. L'ultimo, ne avevamo parlato anche qualche tempo fa, Vivere non basta, pubblicato da Mondadori. Infatti, Marcello non vive solo, fa mille altre cose, è vero Marcello? Sì, sono convinto che appunto il vivere sia soltanto un mezzo, quindi bisogna impiegare in maniera proficua la vita e quindi per questo preferisco svolgere tante attività e non soltanto vegetare. Insomma. Marcello, ora tanto per iniziare, per scaldarci, non ti farò una di quelle domande dai massimi sistemi troppo impegnative, iniziamo pian piano progressivamente, no? Allora ti chiedo, chi siamo, cosa vogliamo e soprattutto dove stiamo andando? Ma se ti riferisci agli italiani, all'Italia, viviamo sull'orlo della provvisorietà, ma da troppo tempo. Cioè, noi forse siamo un paese che vive più nella provvisorietà che nella stabilità. Sentiamo sempre di essere in una fase di transizione che diventa la nostra eternità, e quindi ho l'impressione che dobbiamo abituarci a questa precarietà, a questo vivere un po' labile. In questa fase in modo particolare, certo, viviamo le vicissitudini di una crisi, ma una crisi che, per una volta dobbiamo dirlo, non è una crisi italiana. Cioè, noi abbiamo le nostre fragilità, ma la crisi ha una natura molto più vasta, e vorrei dire che non è nemmeno soltanto con la crisi economico-finanziaria che crediamo, perché la crisi di un sistema di vita, di un modo di pensare, di un modo di essere, diciamo una crisi occidentale che riguarda tutto, riguarda la scarsità di nascite, la non voglia di futuro, il vivere soltanto in una dimensione privata ed egoistica e non... Ti stai riferendo a qualcuno? Mi sto riferendo proprio alla tenuta media del nostro paese, in questo caso non a nessuno in modo particolare, cioè magari qualcuno in modo particolare riflette ed esprime questo clima generale, insomma. Ma è questo, è questa assenza di una dimensione pubblica, dimensione politica, dimensione di popolo, oppure questa assenza di futuro, questa assenza di voglia di creare, questo vivere in difesa con la paura che da un momento all'altro ci arrivi una grande mazzata. Non è bello questo clima. No, per niente. Senti, a proposito di dove stiamo andando, quindi, cioè, tu dove stai andando? Ti sento viaggiare sottofondo. Io sto tornando. Sto tornando a Talamone, ho fatto un giro di conferenze nel Veneto e ora sto tornando nella mia patria di elezione, che è Talamone, dove mi fermo a scrivere, anche se poi, diciamo, la mia patria effettiva è Roma. Senti, mica farai le immersioni come Putti, che ha trovato le anfore etrusche e poi hanno detto che gli hanno messe lì apposta? No, io faccio spesso bagni di mare, ma mi fermo in superficie, non raccolgo né anfore né stelle marine. Molto meglio così. Ti riferivi a Fini, questo l'ho capito, questo sottile riferimento. Comunque, adesso, tu sai che, non so se lo sai, se te lo ricordi, Marcello Veneziani, che questa è l'unica trasmissione che ha proprio un collegamento, un canale privilegiato con il Parlamento. E siccome anche questa settimana Napolitano ha detto basta contrapporre una parte del paese all'altra, basta faziosità all'interno del Parlamento, contrapposizioni cieche, allora sentiamo se finalmente il clima, diciamo, si è un po' rasserenato. Sentiamo un attimo il collegamento, grazie. No. Non sembrerebbe proprio. Va bene, no. Chiudiamo il telefono, grazie. Non così rasserenato, ma insomma, tutto sommato, via, ce la caviamo. Io direi, Marcello, di cominciare a sentire un ascoltatore, visto che subito imminentemente chiamano, questo mi fa piacere. C'è Massimo da Milano. Massimo, sì, buongiorno. Buongiorno a te. Salve, senta, io volevo fare un'osservazione circa l'uscita di Fiat dalla Confindustria. Sì. A parte il prestigio della Fiat, io forse sbaglio, ma non lo so se mi sbaglio. La Fiat, se non erro, porta 5 milioni di contributi all'anno. Non è che sia questo il motivo per cui Confindustria è dispiaciuta, perché io ho un po' l'impressione, io sono un commerciante e faccio parte della Confcommercio, sì, dovrei che tutte queste, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, prendono tutte queste quote per mantenere loro stessi. Poi volevo fare i complimenti, perché essendo una critica a Confindustria e Confindustria la vostra radio, vi complimento per la vostra obiettività. Ma io non ho detto nulla, Massimo, però diciamo che tu l'hai detto e giustamente lo dici liberamente, libere opinioni, in libera trasmissione, ci mancherebbe, caro Massimo, grazie intanto. E io volevo chiedere anche a Marcello Veneziani, non so se sia una questione solo di contributi, se invece non dovrebbe essere la più grande azienda, industria italiana, insomma, che uscendo da Confindustria fa uno strappo forte. È una ferita terribile, mi ricorda un po' quando gli Stati Uniti d'America decisero di tagliare i contributi e non partecipare più alle Nazioni Unite, cioè il principale paese, che era anche la principale fonte attraverso la contribuzione delle Nazioni Unite, che dichiarava di tirarsi fuori. Non credo sia solo una questione contributiva, è una questione di rilevanza. Direi di sì. Senti però, Marcello, tra poco voglio farti sentire un estratto da Ballarò di questa settimana con Della Valle, no? Imprenditore, diciamo, per certi versi sembrerebbe un po' controcorrente rispetto all'idea collettiva che uno si fa, tra virgolette, del padrone, no? Diego Della Valle. Diciamo, questa cosa di Fiat, tu come la leggi, questa decisione di Marchionne? Qualcuno, ma anche non soltanto popolo, diciamo, ha il sospetto che questa storia del rendere più facilmente licenziabili i dipendenti, insomma, non possa essere il motivo di Fiat per uscire da Confindustria, non possa essere l'unico modo per creare sviluppo, per rilanciare l'economia. Ti faccio sentire questo intervento di Diego Della Valle di questi giorni e voglio sapere cosa ne pensi. Io penso che non è il momento di rendere semplice il licenziamento delle persone. Ecco, alle persone bisogna dare sicurezza e non insicurezza. Questo è il mio pensiero. E allora? E allora, ma la risposta, caro Bondi, vede Bondi, non è una risposta che va nel senso che l'ha indicato nella sua lettera. Questa è una risposta che va nel senso opposto al cambiamento del paese, caro dottor Della Valle. Mi spiace dire questo. Stavo dicendo che non è il momento di aggiungere preoccupazioni in famiglie dove il lavoro è già a rischio, non ce n'è per i figli e con 1.000 euro al mese non si campa. Punto. Dopo, e glielo dice uno che ha nelle aziende dove è azionista di riferimento oltre 20.000 dipendenti, non due, è chiaro. Allora. E quindi io capisco che ci possono essere situazioni complicate, che bisogna pensare alla competitività, ma ci sono momenti in cui la solidarietà è più importante della competitività. Ecco Marcello, è il caso davvero che accanto a questa competitività, a volte un po' sfrenato come obiettivo, sembra l'unico faro ormai della società contemporanea, certo, non ci debba essere anche la solidarietà? Ma sono convinto che entrambi siano valori innanzitutto interconnessi, perché quando non si è competitivi non si riesce a essere nemmeno solidali, perché nel momento in cui le aziende sono in crisi e poi chiudono, cioè la solidarietà diventa un bel principio, ma poi non sai come pagare i tuoi dipendenti. Dall'altra parte è vero che c'è una esagerazione mercatista, avrebbe detto Tremonti in altre fasi, in cui le ragioni della competitività diventano schiaccianti rispetto a quelle della solidarietà, e questo non va bene, diciamo, è sicuramente un fatto patologico. Sulla questione Fiat, certo, quella è la ragione scatenante, però io credo che ormai si era creata una frattura di fatto, di mentalità, di modo di essere tra la leadership della Confindustria e la principale azienda italiana, quindi è venuto a maturazione questo nodo. Sul caso invece della Valle mi pare di dover osservare che è legittimo che ciascuno esprima le proprie opinioni in programmi, in trasmissioni. Mi sembra un po' strano che un imprenditore faccia, come dire, un pronunciamento con un'inserzione a pagamento. Ecco, quella mi sembra un po' un'anomalia. Cioè, quando ho comprato le pagine dei giornali, ecco, dici per criticare la politica. Parli? Sei un cittadino come gli altri che deve esprimere la sua opinione, ma non capisco come tu possa dare un ultimatum generico ai politici, ora basta, se lo fai con un movimento o se lo fai esprimendo la tua opinione personale, fallo nelle sedi giuste. Se lo fai come se fossi un partito o se fossi un papa laico della nostra società, allora mi sta meno bene, insomma. Forse avrebbe l'obiettivo di diventare un papa laico, si vedrà. Comunque, Marcello, adesso intanto ricordo il numero verde per le ascoltatrici e gli ascoltatori che possono commentare quello che stiamo dicendo o in genere le notizie della settimana all'800 24 0024. Marcello, e leggevo su in questo momento la prima notizia di Corriere.it è: Fini attacca sulle intercettazioni, lì al convegno degli imprenditori palermitani, in una convention, dice attacca sulle intercettazioni, una legge la definisce lui per interesse di qualcuno. Sì, ma guarda, io ricordo a proposito di Fini le reazioni che ha avuto quando hanno mandato in onda programmi che riguardavano, diciamo così, la sua vita privata o anche conversazioni, e quindi io credo che la coerenza sia il primo motivo di credibilità di un politico. Cioè, a oggi criticare chi vuole porre un freno alle intercettazioni sfrenate della nostra epoca, beh, credo che dovrebbe essere condotta da chi ha avuto un atteggiamento coerente nel passato. Ecco, questo non è il caso di Fini. Che ne pensi dell'intervento della Boccassini, no? Magistrata della Procura di Milano, procuratrice aggiunta, poi con quella delega sulle questioni mafiose, insomma, e che da tempo segue i processi in cui è imputato Berlusconi, che ha detto in questi giorni: ma sulle intercettazioni direi che un freno ci vuole, perché certe cose che escono che non sono irrilevanti fanno arrabbiare anche me. Che pensi di questa sua uscita? È giusto, questo, come dire, depone a favore della sua credibilità, perché bisogna saper distinguere tra ciò che ha rilevanza penale e ciò che non lo ha. e bisogna soprattutto avere una discrezione nell'uso della rilevanza mediatica. Ed io lì sono convinto che non sia una responsabilità del giornale, perché il giornale per sua natura e vocazione, se ha una notizia, la pubblica. Invece chi si assume la responsabilità di far arrivare questa notizia alle fonti di informazione, beh, credo che debba pagare qualche scotto. E quindi io credo che una limitazione debba avvenire, che non è una limitazione, ripeto, delle indagini o della necessità di intercettare chi si trova coinvolto in casi penalmente rilevanti. E il problema è che oggi le intercettazioni sono fatte all'inverso, cioè intanto lo intercettiamo e poi vediamo di che reati lo possiamo accusare. No, però mi risulta, Marcello, che intercettano solo quando ci sono telefonate con pregiudicati, non nel senso vediamo. Ma poi si crea una catena infinita, perché una persona che ha parlato per motivi non certo legati a quell'indagine, ma con pregiudicato, e poi si ritrova a essere a sua volta intercettato, e ci sono state intercettazioni tra persone che non avevano nulla penalmente rilevante in cantiere, indagini, eccetera. Allora ho l'impressione, e lo si è visto anche nella prassi effettiva dell'uso delle intercettazioni, che alle volte prima si intercetta e poi si vede dalle intercettazioni, dalla mole di 10.000 o di 100.000 telefonate, che cosa può venire fuori di penalmente rilevante. Ecco, questo sistema mi pare incivile e non garantista dal punto di vista proprio dei diritti primari della libertà e della possibilità di espressione. Darei spazio da Como a Salvatore. Pronto? Pronto? Salvatore, sì. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senti, io sono uno che stima molto Marcello Veneziani. E questa è una notizia. Politicamente sì. Dall'altra parte. Ma lo stimo veramente tanto. È bello quando mi è così. Mi sorprende questo fatto, che lui non è stato mai invitato né fa parte mai nei talk show, negli approfondimenti politici. E qui, come? E qui? E qui, Salvatore? No, sì, non è abbastanza importante, non ci sono più le mezze stagioni. Io non lo vedo, non lo sento in radio, in TV, per esempio nelle trasmissioni di Santoro o in altre della tipologia di Santoro, e a Piazza Pulita o Piazza Azzurro, cioè non viene o invitato o lui non vuole andarci. Però a me piacerebbe molto che lui partecipasse a questi dibattiti politici e approfondimento dove parlano dei problemi degli italiani, dell'Italia, e invece non lo sente e non lo vedo. Allora mai. intanto Salvatore, aspetta Marcello, Salvatore, intanto devi sempre sentire non ci sono più le mezze stagioni, perché non è la prima volta che c'è Marcello. Scusi, non ho capito. Intanto ti consiglio di sentire sempre tutti i sabati dalle 14 alle 15 non ci sono più le mezze stagioni, perché Marcello ogni tanto è qui ospite. Li ascolto sempre. Molto lei, bene. Lei sì. Con la sua trasmissione, sì. Una di quelle trasmissioni veramente che dà spazio agli ascoltatori. È vero, è vero. E rispetta gli ascoltatori, qualsiasi idea politica, al contrario di qualche collega che fa la trasmissione serale, vabbè. Che si chiama come un insetto. Sì, vabbè. Però ultimamente hanno un po' sbordato tutti e due gli amici lì. Vabbè, grazie Salvatore. Adesso chiediamo a Marcello Veneziani se non è presente per legittimo impedimento, magari. Marcello, che ne so? No. Non sono presente per scelta volontaria, cioè devo dire, ammetto che da qualche anno io mi sono ritirato dai programmi di dibattito televisivo e devo dire, non è che sono stato invitato anche al programma di Santoro ed altri, ma non ci vado da tanto tempo, perché francamente non amo la semplificazione brutale dei nostri tempi. Allora, continuo ancora a partecipare a programmi radiofonici, sia in Rai sia il tuo programma ed altri. Sento lusingato, sì. Anche perché sono convinto che in radio c'è ancora la possibilità di argomentare in modo, diciamo così, più composto e meno faziosamente collocato. Invece in TV bisogna andare con lo spirito del pitbull, cioè bisogna andare lì per mordere, per colpire, e francamente non mi va. E questa è la ragione per cui mi sono volontariamente allontanato dal video. Preferisco la scrittura, preferisco le conferenze, preferisco gli incontri, diciamo, ravvicinati, e per ora sono dell'idea di astenermi, quindi ringrazio Salvatore per questa sua attenzione, ma è stata una mia scelta. Grazie Marcello, è una scelta di Marcello naturalmente essere qui, sono felice, ci sarà molte altre volte. C'è Ivano da Bergamo tra pochissimo all'800240024, perché sapete che oltre a essere l'unico programma che si collega a questo canale privilegiato con il Parlamento, ce l'ha anche con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Da quassù, da Marte, si ha come l'impressione che le cose laggiù sul globo terracqueo, non vadano poi tanto per il meglio, e in specie nella penisola italica. dove si avverte, come si può dire, un gran bisogno di cambiamento, di rinnovamento, ed ecco allora che qualcuno molto in alto, anche se non è troppo alto, ha un'idea rivoluzionaria che potrebbe portare finalmente una ventata di novità e dare impulso a nuove soluzioni. Le Forza Gnocca, la siamo tantissime. Ecco, per l'appunto, e diciamo che l'oggetto di questo inno, protagonista di questa ventata rivoluzionaria, è forse l'unico effettivamente che continua a ricevere un rating altissimo, visto che il resto invece declassa oggi, declassa domani, tutto un declassamento generale. Ma ecco che si comprende allora, per risollevare la drammatica situazione, che c'è un'altra grande priorità da affrontare nel paese, ovvero le intercettazioni. Ciao, sono io. Buonasera, dottore. Sì, mi dica. Ma questa precipua priorità non sembra tuttavia risollevare il rating e gli animi italici, tanto che in lontananza, poi anche tanto in lontananza a dire il vero, si comincia a sentire qualcosa di evocativo, come un presentimento. Che vi evoca a voi tutto questo? Lo tzatziki? La moussaka? Il mare blu di Santorini? La movida di Mykonos? Acqua, acqua, anche se lì nel vostro stivale italico si tratta in realtà di spegnere un fuoco, un incendio, ci vorrebbero un esercito intero di pompieri. Oppure, come qualcuno chiede, come si dice? Ah sì, ci vorrebbe che qualcuno facesse un passo indietro. Un passo indietro ad ora tu non ridi più. E tra le mani aria stringi e non trovi le parole, e ci provi ancora a muovermi il sole. Ancora un passo, un altro ancora. E rimettiamoci con i piedi per terra e torniamo qua sul terreno concreto e continuiamo a parlare delle notizie della settimana all'800 24 00 24, e con Marcello Veneziani. Ivano da Bergamo. Pronto? Pronto, Ivano. Buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno. Allora, volevo solo fare un appunto che sicuramente il dottor Della Valle, puntando una pagina di giornale, forse ha fatto un atto un po' clamoroso, però sicuramente anche una bella provocazione in una nazione dove tutti sono ministri al bar, dove tutti ci lamentiamo al bar, ma purtroppo poi alla fine non riusciamo a risolvere un problema che ci sta assolutamente portando a fondo, che è quello di una politica ipercostosa dove praticamente drena tutte le risorse dei cittadini, le tasse, eccetera, eccetera. E secondo me finalmente è ora che qualcuno... Ha buttato il sasso nello stagno, dici tu, Ivano. È uscito dal bar, insomma, dalle polemiche di bar. Ivano, ti ringrazio. E c'è invece Luigi da Torino. Sì, buongiorno. Sarò il suo ospite. Buongiorno, Io Luigi. Io volevo solo dire che in quest'ultima settimana il Ministero dell'Istruzione ha dato l'esempio di quello che noi stiamo per diventare, cioè una banda di incompetenti. Cioè? Hanno raccontato che esiste un tunnel tra Svizzera e... E questa è storia di due settimane fa, sì, questo tunnel. Chiedo scusa. Storia. Sì, prego. E poi questa settimana sbagliano dei test, mi sembra di aver letto. Sì, dei test per i presidi hanno dovuto annullare diverse domande. Ecco, io ho fatto ancora una piccola ricerca e mi risulta che il direttore generale del ministero, che è un ragazzo che ha la mia età, guadagni 156.000 euro l'anno, vorrei essere smentito. In più riesce a fare anche salto in banco, cioè riesce anche ad avere un lavoro diverso da essere direttore generale del ministero dell'istruzione. Più che delle intercettazioni. E questo si chiama eclettismo, sì. Dimmi. Sì. Sì. Più che delle intercettazioni, mi preoccuperei di questi fattori. Perché io sinceramente al telefono posso intercettarmi, penso di non avere nessun problema a farmi ascoltare. Di queste cose penso che un popolo intero potrebbe avere poi dei problemi in futuro. Grazie Luigi. Grazie. Marcello Veneziani, secondo te, può dare nuovo impulso all'azione politica un nome come Forza Gnocca, per esempio? Dico. Guarda, io quando ho sentito quella battuta, anch'io, come credo la stragrande maggioranza degli italiani, ho pensato, in una situazione così critica, ho tanti problemi, ma c'è bisogno di continuare a fare gli spiritosi. E quindi voglio dire, questa è stata la prima reazione. Quando la seconda... il giorno dopo, la seconda reazione, quando leggo i giornali, che ne fanno una questione nazionale e oggi se ne parla ancora, gli editoriali su Forza Gnocca, eccetera, beh, dico, allora veramente, cioè, l'errore di un politico viene amplificato per 100 dalla acrimonia dei suoi avversari. Senti, allora, ma a proposito di avversari, perdonami Marcello, sai che anche Scajola, Pisano, si dice che anche all'interno della maggioranza ci sono cospiratori, dico, fai questo passo indietro come Negramaro. Io credo che ognuno faccia bene a svolgere il proprio ruolo. Se Pisano e Scajola non si riconoscono più in Berlusconi, hanno tutto il diritto di pensare politicamente a un'altra soluzione. Quindi voglio dire, lì siamo nella piena legittimità. Quello che non trovo, ecco, compatibile è la sproporzione alle volte. Ecco, ad esempio la Gelmini, sentivo prima. La Gelmini io credo che sia da giudicare per la riforma della pubblica istruzione. La battuta infelice che gli ha messo in bocca l'addetto stampa, che è stato a sua volta silurato per questa battuta. Però adesso lavora per Barbara Berlusconi, se non sbaglio. Sì, va bene. Ma comunque voglio dire, non lavora per la pubblica istruzione. È stata una battuta infelice, però diamine, un ministro della pubblica istruzione lo si giudica per la sua riforma. E a me sembra complessivamente una buona riforma, lo hanno detto molti studiosi di provenienza politica e ideologica diversa, e c'è nei limiti compatibili di questa epoca, che non riconosce importanza e centralità alla scuola, che non vuole investire sulla pubblica istruzione, eccetera, in questi limiti, in questo contesto, mi sembra una riforma dignitosa, buona, che premia il merito e che punta perlomeno ad innalzare il livello qualitativo della scuola. Ora, se ci dobbiamo fermare su queste battute, su Forza Gnocca o sulle battute del tunnel, beh, allora siamo messi molto male. Molte le telefonate all'800 24 0024, poi vi ricordo naturalmente che la trasmissione si è proprio entusiasmato, avete perso dei pezzi, la potete risentire sul sito di Radio 24 oppure sulla pagina Facebook, quindi non ci sono più le mezze stagioni. Ho visto anche molti suggerimenti a diciamo a un nuovo nome da dare a PDL, e, a proposito dello slogan che è venuto fuori ultimamente, cioè da Forza Viagra a molti altri, ma vi invito a guardare la pagina direttamente. Invece andrei a chiedere, prima di risentire Marcello Veneziani sulla visita a Putin, Riccardo da Roma. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Riccardo, buongiorno a te. No, io volevo solo insomma polemizzare un attimo con Della Valle e Bondi, perché tutte e due si sono dimenticati, e questa è una cosa triste per i ruoli che svolgono. Io sono un piccolo imprenditore che lavora in sanità e in consulenza e servizi e aderisco a Confindustria, così ho 30 dipendenti. Il mio problema non è discutere come fa Della Valle o come gli risponde Bondi, perché il mio problema è semplice: io assumo, sto assumendo, ma dovrò licenziare e quindi chiuderemo l'azienda, perché non siamo pagati dallo Stato, non siamo pagati da oltre un anno, ma no, non io in particolare, tutte perché le tu lavori con fornisci per lo, con lo Stato, fai fornisco prestazioni a centri di riabilitazione e cose di questo genere e non ti pagano. Sono debitori nei tuoi confronti. Un anno, però io tutti i mesi devo pagare i miei dipendenti. Allora adesso, per non poterne licenziare uno o due, fra un po' dovrò portare i libri in tribunale, così ne licenzieremo 30. Allora, finché non si capisce che questo paese è fatto da piccole e medie imprese, oltre che da qualche, purtroppo poche, ormai grandi imprese, noi continuiamo a parlare di Marte e invece la Terra è da un'altra parte. E quindi è inutile dire solidarietà. La solidarietà è un valore eccezionale. La difesa del posto di lavoro è altrettanto, io sono un ex dipendente peraltro, è altrettanto eccezionale, ma se le imprese non quadrano i conti, noi non li difendiamo i posti di lavoro perché è vietato licenziare. Noi li difendiamo se le aziende producono ricchezza. Sì, beh, nel tuo caso, Riccardo, se mi permetti, no, una considerazione ragionevole, ma mi sembra che il tuo sia un caso diverso, è lo Stato che dovrebbe pagarti le tue forniture. Ma i privati è uguale, guardate la stessa cosa, i privati ormai non pagano. Le grandi aziende pagano a 180 giorni quando sui contratti poi in realtà nella realtà è diversa. Allora, o noi capiamo che e quindi scusa, in moto la macchina, Riccardo, ma la soluzione per rimettere in moto la macchina è rendere più facilmente più facili i licenziamenti. Non è solo una, magari bastasse una sola cosa. Bisogna rendere flessibile il paese. Diceva Marcello Veneziani prima che noi ci stiamo, come italiani, mi pare la prima domanda che facevi, ci stiamo abituando alla incertezza, alla provvisorietà. Mi pare proprio ma questo di sì. Non è, sì, ma non noi italiani, è tutte le società post-industriali, adesso senza citare chi si potrebbe citare di autorevoli sociologi. No, però Giuseppe De Rita che l'aveva fatto un bel discorso su questa cosa. No, Bauman. Bauman, prima, certo, ma Bauman Rita, ancora più in alto. Non c'è un problema di diritto di diciamo primo che l'ha detto, sì. No? L'ha detto. Riccardo, chiarissimo, allora mentre sento in sottofondo che Marcello Veneziani vuole intervenire, do una notizia, un flash di pochi istanti fa, a proposito di Fiat e di dipendenti, la FIOM ha proclamato uno sciopero di 8 ore per il prossimo 21 ottobre. Marcello. Sì, indubbiamente richiamo la concretezza che ha fatto il nostro interlocutore imprenditore, è vera, la concretezza e la flessibilità al tempo stesso, però dall'altra parte bisogna anche considerare che la soluzione non può essere soltanto quella della flessibilità e l'accettazione della precarietà come orizzonte, bisogna avere qualche anche pensiero lungimirante che consenta di investire anche su cose che sono socialmente significative, cioè capire che la tenuta di una società è determinata anche dalla fiducia e quindi dal rapporto di investimento col futuro e non soltanto dall'incertezza. Certo. Non si può vivere, come dire, nell'apologia dell'incertezza, considerando che quello sia il nostro destino e quindi estrema flessibilità. Ecco, bisogna in altri termini contemperare, cioè l'esigenza della competitività, dell'incertezza come destino, con quello della solidarietà, dell'investimento sociale, dell'idea di sviluppo, perché questa idea della contrazione continua è quello che ci sta privando di ogni prospettiva di futuro, insomma, e quindi credo che questa sia l'unica vera risposta. Non credo all'unilateralità delle risposte, cioè bisogna rispondere su due piani: sul piano della maggiore efficacia di mercato, come fa appunto l'imprenditore che ha chiamato, ma dall'altra parte anche sul piano dell'investimento sociale. Certo. Concetta da Napoli, sempre al numero verde 800 24 0024. Eccoci. Buonasera. Da te, Concetta, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno, sì. Dunque, diciamo che io ti volevo salutare, sì, perché grazie. Ti ascolto tantissimo, però non sono riuscita mai a parlare con te, quindi ti volevo salutare, dire che sei bravissima. Grazie Concetta, questo è un incontro emozionante, grazie. Concetta, tu usi Facebook? Sì. Usi Facebook? Io sì, sì. Allora possiamo anche comunicare lì, se vuoi, sulla pagina di Non ci sono più le mezze stagioni. Comunque, certo, intervenire così a voce, sentirsi è tutta un'altra cosa. Prego, Concetta, hai anche una notizia della settimana? No, ti volevo dire, praticamente il signore di prima mi ha anticipata per quanto riguarda la Berlusconi, la gnocca, i giornalisti, perché non se ne può più. Cioè, il signore di prima mi ha anticipata, quindi... Ma chi? Parli di Marcello Veneziani, l'opinionista estemporaneo di oggi, o parli di un ascoltatore? No, un ascoltatore... che non ricordo il nome perché stavo facendo i piatti. Giustamente, ognuno è preso dalle proprie attività quotidiane. Concetta, che pensi di questa forza gnocca allora? Cioè, non ne vuoi più parlare? Qual è la questione? No, la questione è che comunque, cioè, non se ne può più, hai capito? Con tutti questi problemi che qui abbiamo, non ci possiamo soffermare. Giornali, cioè, ora a me non si parla di quello. Cioè, tu dici, è stato detto, basta, lo mettiamo da parte, andiamo avanti. Sì, punto, cioè che ha detto pensi? Sta frase, Concetta, ha detto sta frase, lo sappiamo lì com'è, no? Lui le spara tutti i giorni. Concetta, ma che pensi di questo governo? Deve fare un passo indietro, si va avanti? Che idea hai? Ma guarda, secondo me, secondo il mio parere, da casalinga, da una persona ignorante, voglio dire. Perché mai? Si capisce secondo me se ne dovrebbe andare, cioè, si dovrebbe ritirare a questo punto. Non so chi verrà dopo, come sarà il dopo, questo non si sa. Ma comunque lui a questo punto, insomma, ne ha fatte tante, quindi... Concetta, chi c'è lì con te? Chi c'è lì? Sei tu dei bambini? No, io sono da sola. Sei da sola? Hai lavato i piatti? I miei bambinoni sono a Milano, perché lavorano lì. Ah, ho capito, insomma, il lavoro, diciamo, è un pochino più al nord, ancora un po', gira, ecco, non moltissimo. Questo è un altro punto che si dovrebbe discutere, insomma. È molto attuale, si parla costantemente di mezzogiorno, di un giovane su tre, esatto, che è senza lavoro, esatto, di donne. Io ho tre figli, tutti e tre fuori. Tutti maschi? Ho due maschi che lavorano a Milano e una ragazza che sta a Londra. Cioè, i miei figli a 32 anni, laureati, hanno trovato lavoro lì a Milano. Beh, meno male, insomma, almeno loro. Concetta, sì, allora sì, ti sì. aspetto su Facebook. Quando lavi o non lavi i piatti, quando cucini, quando parli con i tuoi figli, ti aspetto. Grazie. Va bene. Ciao Concetta. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Senti Marcello, dicevo prima di questo editoriale su Corriere della Sera di oggi, che si intitola Una missione non necessaria. Cerco di sintetizzare. Allora, scrive Francesco Franco Venturini: ora che Putin si è tolto la maschera anticipando ai russi il risultato delle elezioni presidenziali di marzo prossimo, cioè ha detto che lui resterà per un decennio, non mi ricordo quanto, ha deciso di togliersela, ammesso che ce l'avesse, anche Berlusconi. Il viaggio in Russia del Presidente del Consiglio non dovrebbe stupirci, tanto numerosi sono i suoi precedenti, ma Silvio Berlusconi è riuscito nell'impresa. Perché mentre l'agenda diplomatica del capo del governo italiano risulta paralizzata da un asserito eccesso di impegni, anche giudiziari, si deve forse intendere, il tempo, dice, viene trovato senza difficoltà per correre a festeggiare il compleanno dell'amico e prossimo zar Vladimir. E dice, intendiamoci, sicuramente i rapporti sono importanti, è un leader con cui tutti i paesi occidentali non solo dovranno confrontarsi nel futuro e nel presente, dice, ma pur, salto da un'altra parte, ma pur non volendo indulgere a certi recentissimi furori anti-berlusconiani, dice Venturini, non riusciamo a credere che siano stati questi temi, cioè la politica, l'economia, eccetera, a riportare Berlusconi in terra russa. E lui l'ha intitolato una missione non necessaria. Che ne pensi? Sì, ma io credo che ci sia una commissione di fattori, cioè da una parte ci sono reali interessi italo-russi che vanno tutelati e vanno anche in qualche modo salvaguardati. Dall'altra parte c'è un feeling personale tra Berlusconi e Putin che tutti sappiamo, c'è l'idea di andare alla festa di un amico, insomma. E questo non so se in questa condizione sia la scelta più opportuna, così come non so se la scelta più opportuna sia quella di avere un rapporto, come dire, privilegiato con un personaggio come Putin. A te piace Putin, Marcello? No, a me non piace. Neanche a me, per niente. Devo dire, non piace, e quindi non amo questo rapporto. Capisco la valenza commerciale di alcuni rapporti, so che tutti si sono sottomessi a rapporti anche con personaggi sgradevoli. Ricordo quando Prodi andò con 1000 persone a onorare la Cina che mandava a morte 3000 persone con condanne a morte. Lo faceva perché c'erano reali interessi economici e finanziari del nostro paese. Quindi so che c'è un aspetto sgradevole nella politica estera che alle volte è dissociata dall'effettiva valenza positiva o negativa dei governi che si vanno a omaggiare. Però ecco, in questo caso c'è anche un aspetto privato che francamente diventare secondario rispetto ai primari interessi italiani. Effettivamente. Faccio un piccolo inciso a proposito di Cina, visto che l'hai citato. Ho letto delle cose orrende questa settimana su come i cinesi scuoiano vivi, appendendoli con le zampe posteriori, i procioni. Devono essere vivi e cominciano dalle zampe di dietro con un coltello, delle cose orribili per fare delle imitazioni di stivali che vanno per la maggiore in Europa, in Gran Bretagna, eccetera. Sapete, se vi documentate, che cosa fare, per esempio, in presenza di questi stivali, e non dico altro. Insomma, cosa vuole dire qualcosa, Marcello? No, dicevo, Roberta, che in Cina ci sono anche ristoranti dove si riesce a mangiare dal vivo il cervello di una scimmia che è ancora viva. Cioè, ci sono degli aspetti di una crudeltà immensa, insomma, che andrebbero in effetti posti all'attenzione internazionale. Devo dire proprio di sì, perché qualcuno pensa, vabbè, gli animali, ma chi è capace di fare queste cose agli animali in genere? Diciamo che il passo è molto breve. Comunque i diritti sono di tutti, degli esseri umani e degli animali. Antonio da Piacenza, prima della prossima pausa della viabilità, Antonio? Sì, pronto. Eccoci qui, sì. Sì, buongiorno. Volevo fare un piccolo, velocissimo intervento. Molto bene. Sul discorso delle intercettazioni. Sì. Il suo gentile ospite diceva che sosteneva che in pratica ultimamente sembrerebbe che non fa più le intercettazioni e poi dopo successivamente vede quasi se ci siano dei reati così questo tipo. Mi permetterei, mi sembra che abbia scoperto acqua calda, cioè, è normale che uno fa le intercettazioni per scoprire eventualmente se dopo c'è il reato, perché se lo sapesse prima... No, ci deve essere un sospetto di reato, ovviamente, no? Non è che uno dice, ma sentiamo Antonio da Piacenza se c'è qualcosa di lusco che nasconde, giusto Antonio? tu nascondi qualcosa di lusco, Antonio? Ah, ecco, vabbè, non lo possiamo sapere comunque. Per carità, io non penso di far parte di quella... delle persone che hanno paura di essere una persona normale che non parlerà mai con un eventuale malavitoso. Senti Antonio, ma la cosa più inascoltabile che hai detto ultimamente al telefono, se si può dire, una cosa che inascoltabile? Inascoltabile che hai detto, che uno se l'avesse ascoltata intercettando. Non si può ascoltare. Non si può ascoltare, giustamente Antonio, ci ho provato, ma niente. Non si può ascoltare, ma comunque non è perseguibile tra reati, così così. Molto bene, mi fido se lo dici tu Antonio, mi fido. E prima di nuovo far intervenire Marcello Veneziani, visto che sono tante le ascoltatrici e gli ascoltatori, direi, e tra poco abbiamo, anzi forse, c'è già, certo, cioè, no, abbiamo appuntamento, abbiate pazienza, possiamo esimerci dal sentire che lucubrazioni ha fatto Maria Laura Rodotà, commentatrice del Corriere, questa settimana. Cara Maria Laura. Ciao, come va? Bah, insomma, va, andiamo, dove andiamo? Insomma, andiamo. Tu come vai? Come stai? Io vado bene, sono molto raffreddata e stavo pensando all'intervento di Concetta, che ha perfettamente ragione. Non se ne può più, ma io aggiungerei una cosa. Sì. Dovremmo riprenderci le parolacce. No, dai, adesso, non in radio però, Maria Laura. Non in radio, ecco. Riprenderle e portarcele a casa nostra. Ah, in quel senso, come uno ha lasciato il gatto fuori e se lo riporta a casa, dice una cosa sì, così. Sì, perché il turtiloquio, le zozzerie, come si direbbe a Roma, hanno ormai invaso il discorso pubblico e stanno distruggendo il nostro gusto trasgressivo di dire le parolacce e per molti di noi anche la nostra libido, perché abbiamo continuamente queste immagini di anziani con signorine pneumatiche, insomma è molto brutto. Per cui no, vorrei dare una notizia di domani. Ah, di domani? Cioè tu sei proprio in anteprima, qui non ci sono più le mezze stagioni, Maria Laura. Ma sì, perché è una storia di politica, di uomini, donne e politica che non è sconcia, anzi. Ci saranno le primarie del Partito Socialista Francese domani, sì, per la prima volta aperte a tutti i cittadini che pagheranno un euro. I tre candidati più importanti sono un uomo e due donne. Ségolène Royal c'è ancora? Sì, mi sembra di sì. È terza nei sondaggi, ma c'è ancora, che è la ex compagna del favorito François Hollande. Sì. E poi c'è Martine Aubry, che è il sindaco di Lille, un ex ministro. Ma insomma, sono un signore e due signore. Incredibile, normali, sarà impensabile per noi, che dici, o no? Competenti, seri, tutto sommato ognuno con i suoi difetti, ma dei candidati da paese civile. Teniamo conto che anche la Francia ha avuto il suo bling bling, come lo chiamano loro, ma che insomma in un paese che è proprio confinante col nostro queste cose si possono fare. Cioè io vorrei essere ottimista oggi, nonostante la malattia. Ma scusa Maria Laura, anch'io voglio essere ottimista e ti auguro pronta guarigione, ma ti fai cogliere dal non ci sono più le mezze stagioni così all'improvviso, dal caldo al freddo e tu subito attacca quel raffreddore, non mi ti curi. No, è un virus che si porta molto, anzi mi stupisco che tu sia una donna che fa tendenza e non ci fai. vedrò anche io di farmi attaccare qualche germe, qualcosa, mi scrollerò il naso per la prossima settimana. Grazie Maria Laura, molto alla page. Grazie a voi. Maria Laura Rodotà. E adesso sentirei, dicevamo Pierpaolo d'Alessandria, se non sbaglio, è Pierpaolo? Sì. Sì, Pierpaolo, riesci a essere sintetico, sì. Pierpaolo? Sono in scusami. Linea, quando... sì. Sì, sei in linea, eccoci, ti sento bene. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Innanzitutto volevo ringraziare anche tutti i colleghi della radio che ogni giorno forniscono veramente un servizio che è impareggiabile. Riferirò, grazie. Grazie a tutti voi. Grazie. Bene, no, io volevo solo replicare un attimino al vostro gentile ospite per quello che riguarda il discorso Gelmini, perché non è una battuta, devo essere molto preciso, perché è un comunicato ufficiale. Quello del tunnel dei neutrini? Esatto, no. Perché no, cioè io francamente sono, come cittadino mi ritengo un po' stufo anche di un atteggiamento di minimizzazione di accettazione proprio supina di tutto quello che fanno i nostri politici, per cui non si può sempre minimizzare, cercare di dare sempre ogni giustificazione e poi dare la colpa ai giornalisti che enfatizzano le cose. Questo fatto, sì. Scusi solo sì. Che concludo, sì. Questo fatto è un fatto ben preciso, c'è stato un comunicato ufficiale, ne ho parlato anche, sul sito del ministero. Testualmente che l'Italia ha contribuito con uno stanziamento stimabile a 45 milioni di euro alla costruzione del tunnel del CERN tra il CERN da Ginevra e all'Abruzzo. Sì. Questo per dire che uno può anche essere non competente di fisica, però perlomeno dovrebbe accertare. Sapere se in Italia c'è un tunnel che attraversa, diciamo, dalla Svizzera. Poi c'è anche l'RS. C'è anche qualcosa da aggiungere sui quiz, perché da un'analisi fatta su questi 1000 quiz per il concorso a dirigente, andati a incrociare con i 5000 che sono proposti, ce ne sono ulteriori che non sono stati individuati, che sono comunque sbagliati e non sono stati individuati. Grazie per Paolo, lo dicevamo prima, io devo sintetizzare perché poi sentiremo Marcello Veneziani naturalmente cosa ne pensa anche di questa osservazione, ma Valeria Della Valle ci aspetta incombente con la parola della settimana. Cara Valeria della Sapienza di Roma, ti proporrei, come dire, così una cosa a caso, declassamento per esempio. Ecco, giusto una parola a caso. Declassamento, che viene ovviamente dal verbo declassare, e il verbo declassare viene a sua volta dal francese déclasser, che significava in origine una cosa diversa, cioè voleva dire ritirare un'imbarcazione, una nave dall'iscrizione marittima, e poi dopo ha assunto il significato di degradare da una classe superiore a una inferiore. Quindi ci avviciniamo al significato attuale, perché poi i due verbi, in particolare nella lingua italiana, si sono diffusi intorno agli anni 30 del secolo scorso, soprattutto nel linguaggio finanziario, nel mercato turistico, e con quel senso che... Valeria, scusami, tu sei nel tunnel dei neutrini, perché sento questo vento tipico di un tunnel. Sono in mezzo a un vento furioso, e concludo velocemente dicendo due cose positive per dare sempre un colore meno pessimistico. Beh, intanto la parola italiana, quindi questo ci fa piacere, visto che il linguaggio dell'economia è sempre l'inglese, e l'altra è che, se andiamo a cercare nei vocabolari, questo termine compare usato negli scritti di un presidente, un economista, uno scrittore che tutti rimpiangiamo, se non altro per il grande stile e il senso dell'etica che oggi ci manca, cioè Luigi Einaudi. Grazie Valeria Della Valle, anche grazie. Se devo dire che déclassé fa tanto così, proprio più moda, più stile, più un po' più elegante. Ecco, déclassé. Alberto da Pavia, l'800240024, riesce a essermi sintetico, Alberto? Ratto come la folgore? Sì, pronto? Assolutamente, buongiorno. Molto bene, buongiorno a te. Sì. Pronto? Ci sono, sì, sono qua. Ah, ok, io volevo fare solo una considerazione sul discorso di Forza Gnocca. Sì. Ovvero, da un lato praticamente il fatto che si commenta per tanto tempo un'affermazione di Berlusconi di questo tipo dimostra la pochezza e i pochi contenuti della sinistra, che al momento purtroppo non c'è, cioè si appiglia a una battuta di Berlusconi dall'altro. Quindi Forza Gnocca denota la pochezza della sinistra? Già. Sì, no, più che altro secondo me tende il fatto che si commenta sempre la battuta di Berlusconi è perché a sinistra non c'è un programma, non c'è niente, mentre invece a destra... Non c'è uno slogan altrettanto efficace, dici Alberto? No, credo che non hanno... Cioè, non c'è materiale da portare agli elettori, loro commentano quello che dice Berlusconi, secondo me. Dall'altro invece Berlusconi, mi auguro che non venga più eletto, e io sono di destra, no, mi auguro che non venga più eletto, perché mentre prima era un one show man, quindi era uno che sapeva tenere bene le redini di un'ottima faccia da televisione e aveva anche dei contenuti. Faccia da televisione. Ora è soltanto un personaggio che sta lì, dice la sua battuta, ma oramai gli italiani lo conoscono, hanno capito che personaggio è, quindi mi auguro che vada a casa. Chi voti, Alberto? Chi voti? Io, se si candida Renzi, voto a sinistra per la prima volta in vita mia. Ah, questa è una notizia. Grazie Alberto. Chiedo a Marcello Veneziani, ti piace Renzi, a te? Ma devo dire, ha una sua efficacia, insomma, bisogna riconoscere che Renzi potrebbe pescare voti anche nell'ambito del centrodestra, magari perdendone qualcuno a sinistra. Però indubbiamente da una parte c'è il messaggio forte del giovane, il salto generazionale, dall'altra lui sa muoversi con un certo equilibrio, forse con civetteria, forse con furbizia, ma comunque riesce a muoversi. Quindi direi che tutto sommato è un personaggio da tenere presente. Insomma. Marcello, per chiudere, visto che ci mancano pochi, ti voglio chiedere, a te, Marcello Veneziani, piacciono i babà? Moltissimo. Stai attento, a mangiare i babà, perché in questi giorni è stata fermata una donna a Caserta che se ne andava tranquilla fischiettando in bicicletta. Che cosa aveva fatto la povera donna? Astemia. Si era, essendo molto golosa, mangiata quei 4-5 babà, prima ne sai che hanno il rumo, il limoncello. È stata fermata dai vigili, ritirata la patente, eppure se andava in bicicletta, e adesso lei fa ricorso alla Cassazione. Cioè, ti sto mettendo sull'avviso, nel senso... Ma guarda che anni fa ci fu una graduatoria di un personaggio di armi, Arbore, che stabiliva dei meriti in base a 4 babà, 5 babà. Quindi evidentemente c'è già una è un reato, è un reato. È un reato importante. Non so perché ultimamente i reati più gravi in Italia sono puniti in base ai dolciumi. L'altra volta questo processo da 2 anni sul furto di un ovetto Kinder e questa volta i babà. State attenti con i dolciumi. E anche tu, Marcello Veneziani, grazie e buona continuazione. Anche a voi. Ciao Marcello. E da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.